Buonasera cari amiche e cari amici, con l'episodio di oggi, l'episodio che riguarda le interviste numero 3, avremo l'occasione di ascoltare il dottor Domenico Di Petrillo, ufficiale dei carabinieri in congedo, dirigente privato, che è autore di un volume molto interessante, Il lungo assedio, la lotta al terrorismo nel diario operativo della sezione speciale anticrimine Carabinieri di Roma, pubblicato nel 2018 con l'editore Melampo. Non perdiamo altro tempo, vi ricordo solo di iscrivervi ai soliti canali a cui fa riferimento il nostro progetto Storia dei Carabinieri e passo quindi la parola all'intervista. Grazie e a presto. Chi è Domenico Di Petrillo? Un ufficiale dei carabinieri in congedo con una grande esperienza di polizia giudiziaria, di investigazioni che poi ha riversato nel settore privato. È in Napoli prima di entrare in accademia per il corso carabinieri e intraprendere così la sua carriera nell'arma. Dopo un'importante partecipando all'esperienza del secondo nucleo speciale affidato al generale Carlo Alberto Dal Chiesa, operandovi per 12 anni. Tra i successivi incarichi, tra i fondatori della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, e quindi presta servizio al SISDE, Servizio Informazioni e Sicurezza Democratica, per poi passare al settore privato. Qui si parlerà dunque della sua esperienza professionale che ha raccolto nel volume intitolato Il lungo assedio, la lotta al terrorismo nel diario operativo della Sezione Speciale Anticrimine Carabinieri di Roma, pubblicato nel 2018 con l'editore Melampo. Sì, io sono un figlio dell'arma. Mio padre era un appuntato dei carabinieri in una piccola stazione, quindi ho respirato questi sentimenti, insomma, di amor patrio, di vita vicino alla popolazione. Ho frequentato poi la scuola militare Nunziatella, dove ho coltivato meglio, in maniera più intensa, quei valori che avevo respirato in casa fin da piccolo. E poi quindi ho ceduto all'arma, ho avuto una piccola esperienza alla scuola ufficiali, ma quello che è stato per me fondamentale e diciamo molto formativo è stata la mia esperienza in Sardegna, dove ho comandato una tenenza, una compagnia in nucleo investigativo. Ecco, poi mi andò bene, evidentemente dimostrai una certa predisposizione all'attività investigativa, per cui il mio ultimo incarico fu quello appunto di comandante del nucleo investigativo di Nuoro, che era attribuito da un punto di vista cartolare ad un ufficiale superiore addirittura. Quando avviene il sequestro Moro, io vengo spostato insieme ad altri alla sezione anticrimine di Roma. In verità sarei dovuto arrivarci un po' prima, l'anno precedente, anche a seguito di una minaccia grave che avevo ricevuto a Nuoro. Avevano messo anche una grande bomba, una grossa bomba, una caserma, per le attività che avevo fatto verso un gruppo di famiglie criminali della zona del Nuorese. Chiesi di rimanere per terminare quello che avevo iniziato, che poi andò anche molto bene, per cui questo spostamento arrivò molto rapidamente, proprio in occasione dell'emergenza del sequestro e omicidio Moro. Io arrivai alla sezione nel maggio del 78 e quindi cominciai a muovermi in questo ambito di attività antiterrorismo. In verità avevo già iniziato a Nuoro, perché il carcere di Nuoro rientrava in quel circuito di carceri differenziate dove venivano tenuti i grandi criminali, compresi diciamo quelli terroristici. Il carcere era in quel circuito su cui in effetti esplicava la sua attività generale dal Chiesa già, il quale era stato incaricato di dirigere i servizi di sicurezza per gli istituti di prevenzione e pena a seguito di continue evasioni, anche sanguinose, che si erano verificate su tutto il territorio nazionale, comprese quelle terroristiche. Quindi io ebbi quell'occasione, modo di conoscere il generale e quindi di confrontarmi con lui, anche se molto brevemente. Quindi iniziai questa attività a Roma, alla sezione speciale, Innanzitutto studiando, era un fenomeno nuovo per me in maniera così totale, perché il reparto era dedicato all'attività antiterrorismo. Era un mondo nuovo, quindi ho cominciato a leggere, a informarmi, a cercare di metabolizzare contenuti e metodologie da parte di quello che sarebbe stato il nostro avversario. Lo uso la parola avversario, non nemico, perché è bene per chi come noi svolge attività in un contesto di Stato di diritto cercare di spersonalizzare queste cose in maniera tale da un approccio corretto. E quello che ci ha accompagnato, che rientra del resto in tutta la nostra cultura, sia dal punto di vista dell'arma ma anche morale, ciascuno di noi ha dei sentimenti. È bene non parlarli, ma indubbiamente determinano anche come ci si muove, come si approccia ai vari problemi. Ti posso chiedere come lavoravate in quel periodo nella sezione, le vostre modalità, che non solo quel carattere operativo di cui dai delle descrizioni all'interno del volume, ma mi piace da carabiniere a carabiniere anche i rapporti che si sono creati a livello professionale, ma direi per appunto anche umano, tra militari diciamo di grado diverso. Un'organizzazione, un'indagine criminale si basa normalmente su moventi, c'è un movente che determina l'humus in cui matura un delitto. Qui ci trovavamo di fronte ad un problema sociale che esprimeva una contestazione che vivevamo nelle strade con delle manifestazioni di ordine pubblico violentissime, ma qui invece si era passato ad uno stadio successivo, quindi una lotta armata vera e propria, compiuta da varie organizzazioni. Quella più strutturata era quella delle Brigate Rosse, perché aveva un approccio marxista-leninista, quindi con una fisionomia organizzativa molto determinata, verticistica, e quindi con strutture centrali e periferiche e con dei compiti specifici all'interno di ciascuna di queste strutture di combattimento, come le chiamavano loro. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è studiato. Dopodiché, mentre muovevano queste cose, in cui la sezione è nuova a questo fenomeno, perché era stata formata sostanzialmente per la questione Moro, prima si riteneva che l'area romana non fosse investita dal terrorismo, che invece era invece molto più consolidato nella fascia nord, dove esistevano tutto l'apparato industriale italiano. Invece no, Roma aveva una struttura molto molto più complessa, poi vedremo, ci si scontreremo, perché è formata da gruppuscoli, collettivi di strato, di quartiere, per cui posso dire senza tema di smentita che l'indotto della corona romana è intorno a 1 miliardo di persone. Ecco, noi mentre cominciamo a censire, un po' cerchiamo di censire questo fenomeno, questo lamento romano, arriva l'incarico, il secondo incarico al generale della Chiesa. Il generale della Chiesa aveva già fatto bene nel primo nucleo, che poi inopinatamente era stato sciolto per volere del governo. Questo nucleo invece nasce nel settembre del 78 e anche questo durerà soltanto fino alla fine del 79. Comunque, da un punto di vista contenuti, il generale della Chiesa è stato un ufficiale, un comandante che ha consentito e ha spinto giovani ufficiali a muoversi, a ideare, ad operare con fantasia, ad operare con libertà, senza quei vincoli territoriali che fino allora caratterizzavano un po' il modo di agire. Questo non è il mio territorio, questo è il mio territorio. Parliamo di un'organizzazione con una dislocazione nazionale, con dei flussi operativi internazionali, quindi rimanere relegati a limite di territori era quanto di più intruso e stupido. Il generale ci ha abituato a ragionare con questo respiro di analisi strategica, quindi attività di intelligence prima di concepire l'azione. Infatti nel mio libro parlo di un'operazione, l'operazione Olocausto, che nasce nel 79 a seguito dell'infiltrazione di un militante del PC offerto al generale dalla Chiesa da parte della direzione del PC. L'operazione dura 10 anni. Nel libro la divido in 9 sottooperazioni, ma di fatto è molto più sbriciolata. E quello che è importante dire è che queste operazioni sono una legata all'altra. Significa che abbiamo agito con una mentalità da polizia di sicurezza, seppure con gli strumenti della polizia giudiziaria e di osservanza dello Stato di diritto. Il generale della Chiesa ha avuto la genialità di consentire a pochissimi giovani ufficiali, capitani dell'età di 30, 32, 33, 35 anni di potersi esprimere, tanto che noi tra di noi, meravigliati di questo modo nuovo, dicevamo: Madonna, si può fare. E allora siamo partiti all'avventura, forti dei nostri ideali, forti però di una determinazione fortissima che ci ha fuso, ci ha uniti l'uno all'altro, ed è stato il collante che abbiamo potuto trasferire ai nostri uomini, che sono diventati insieme a noi un tutt'uno a formare le parti che poi sono stati ammirati in tutta Europa e hanno operato in tutta Europa anche da soli. Perché quando si usciva dalla caserma, all'epoca non c'erano tutti questi strumenti di comunicazione, quindi diciamo che la preparazione che noi trasferivamo al personale era anche rivolta al fatto che se rimanete soli dovete sapere logicamente come agire per non rovinare magari mesi, magari un disegno operativo che avrebbe portato ad inferire colpi destabilizzanti all'organizzazione, che intanto continuava a uccidere, quindi e creare allarme nel paese, creare ad essere destabilizzante del sistema politico, amministrativo. Roma, la sera, in quegli anni, alle 10 di sera, non c'era poca gente che andava in giro, quindi andava ad impattare nella vita anche di tutti i giorni. Ecco. Io ti dico questo, dunque, il titolo è il lungo assedio, no? Poi il sottotitolo: la lotta al terrorismo nel diario operativo della sezione speciale anticrimine dei Carabinieri di Roma. Lo hai già in qualche modo anticipato adesso. Si può dire che effettivamente la sezione speciale anticrimine di Roma vivesse un lungo assedio? Cioè, questa idea che poi mi sembra nel libro emerga, a un certo punto gli avversari si accorgono della vostra presenza e capiscono dove siete fisicamente dislocati. Ma il lungo assedio, io questo titolo l'ho rivolto, non eravamo noi ad essere assediati, e piano piano l'abbiamo noi assediati. E abbiamo trasformato quella soggezione. Mi ricordo che alcuni articoli di stampa in quel periodo, in cui si parlava di geometrica potenza delle Brigate Rosse, che poi tanto geometrica non era, perché era soltanto corrispondente a una geometrica ignoranza nostra. Quando ci siamo acculturati, quando abbiamo afferrato il bandolo della matassa, ben attenti a non perderlo, con un metodo operativo che veniva definito in quegli anni i rami verdi, che consisteva nel non intervenire su tutto quello che conosci, lascia fuori una piccola parte, che peraltro da un punto di vista legale non era neanche, per la quale non erano neanche configurabili delle imputazioni penali, perché altrimenti saremmo stati omissivi, certo. Da un punto di vista proprio procedura penale, e a continuare con quella. E quindi con l'andatura del gambero abbiamo fatto questi balzi in avanti sempre più incisivi. Ricordo ancora che in quegli anni uno dei volantini che proprio confermavano la spavalderia di questi, quando non riuscivamo ad afferrarli in maniera efficace, in maniera veramente efficace, scrivevano: chi cerca chi? Siamo in ogni angolo, siamo nella metropoli, come a dire che noi eravamo annichiliti da questa loro presenza, che pure c'era stata. Ricordo l'attentato al comitato regionale della GC di Piazza Nicosia, questi furono capaci di schierare tutta la colonna romana, capace di una decina di persone che entrarono nel fabbricato, ma occuparono tutte le vie di accesso all'area, uccidendo anche una pattuglia della Polizia di Stato, quindi occupando una parte di territorio nazionale. Quello è stato uno dei punti più umilianti per una forza di polizia, certo. Non essere riuscita a impedire questo fatto importante, politicamente importante, oltre che per il fatto in sé. Ecco, noi il chi cerca chi l'abbiamo trasformato. L'abbiamo trasformato con un inseguimento. Ecco perché il lungo assedio. Il lungo assedio è perché piano piano siamo arrivati a romperli. L'ultima operazione nel settembre dell'88, interveniamo su ben 10 covi e li arrestiamo quasi tutti, lasciando soltanto una piccola entità che non eravamo riusciti a delineare perfettamente, ma che dalla contabilità che troviamo tra la repertazione, tra i reperti trovati nel covo, vediamo che ci sono due strutture che sono rimaste fuori. Ricordo, una si chiamava Trinchetto e una Est. Per Est era sicuramente riferita a qualche struttura all'estero, certamente Parigi, dove loro avevano una base da sempre, e poi Trinchetto, ecco, attivammo una serie di ricerche, riuscimmo a riafferrare il bandolo della Macassa, individuando un covo in via Trinchera a Napoli, ed ecco Trinchetto, certo. Dalla parola Trinchetto. Di lì partì tutta un'operazione che i ragazzi fecero sostanzialmente da soli, con un pedinamento che iniziò a Napoli e si concluse a Parigi dopo circa 3 giorni. Passarono insieme a loro, dietro di loro, a piedi la frontiera, al Clavier, sopra Torino, fino ad arrivare a Brianzon e da lì a Parigi. Riuscimmo in quella circostanza, addirittura in quell'operazione, a affittare noi un covo insieme alla polizia francese, all'Enseignement Généraux, un covo a loro per poterli contare infine. Sapevamo che erano pochi, però volevamo essere certi che l'intervento arrivasse a risolvere finalmente il problema, e ci riuscimmo, perché il 7 settembre dell'89 li arrestavamo tutti. Quello che poi ancora vorrei ribadire per rendere qualità quella che è stata la nostra azione, oltre che all'uso equilibrato della forza che abbiamo cercato di mantenere in ogni momento, noi abbiamo cercato di temperare l'azione dello Stato con misura e con equilibrio. Agiviamo in una città, i conflitti a fuoco, i proiettili si sa dove escono ma non si sa mai dove vanno a terminare, certo. Non volevamo creare martiri, per cui anche la cattura doveva avvenire in ogni in tutti i modi possibili, senza spargimento di sangue, ma cercando di arrivare al contatto fisico che fosse immobilizzante, tant'è che non facevamo più neanche l'eruzione nei covi che scorrevamo, aspettavamo che uscivano, tanto dietro l'angolo avrebbero trovato 3 uomini che lo aspettavano, uno prende un braccio, uno l'altro, uno si mette di fronte per neutralizzare un'eventuale risposta fisica. Intanto tutto questo movimento è seguito da una comunicazione radio della struttura di pedinamento, della struttura di arresto che è messa in piedi, che segue tutte le vicende, una macchina si avvicina, quindi in circa 10 secondi l'arrestato in macchina è portato in caserma. Certo. In questo modo abbiamo evitato di farci male tutti e abbiamo anche fatto in modo che magari quella persona arrestata si potesse convincere e collaborare, e quindi, diciamo, mantenere riservato un'ipotesi operativa che poteva essere formidabile. Ecco, quindi quando parlo di quello livello di maturazione, parlo di queste cose. Questo reparto nato inizialmente, diciamo sostanzialmente raccogliticcio, studia, comincia a imparare, prende le sue delusioni, ne fa tesoro, ma non un tesoro che va ad abbacchiare la volontà, anzi la stimola con decisione, perché ci sono dei valori dietro che ci hanno spinto. E questo lo facevamo tutti i giorni, non c'era documento eversivo che non veniva sottoposto ad un'analisi. L'analisi, oltre a mandarla per le vie gerarchiche perché potesse raggiungere il governo, ma veniva fatto comunicata a tutti i ragazzi della sezione, che quindi venivano diciamo bombardati giornalmente di contenuti, oltre che dell'attività PIA, anche dei contenuti che muovevano questa organizzazione, da un punto di vista metodologico, da un punto di vista di qual era la progettualità che si desumeva dall'analisi dei documenti. E anche quando si usciva per le operazioni, di pedinamento. Scrivevo io a mano il brogliaccio, ma non potevamo fare il brogliaccio formale dell'arma perché era talmente tanto all'ora in cui erano sottoposti questi ragazzi che era difficile poterlo scrivere. Quindi era un foglio di carta scritto a mano da me in cui c'era scritto sei fine tutti i giorni, sei fine tutti i giorni, con la ripartizione per ciascun uomo dei mezzi. Ecco, prima di partire c'era il briefing. Al rientro dal servizio, quando chi aveva la responsabilità diceva rientrate, c'era il debriefing. Quindi questo insieme di martellamento creò un reparto micidiale che è stato apprezzato soprattutto in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Svizzera, in Spagna, dove la sezione anticrimine di Roma in genere e l'organizzazione antiterrorismo dell'arma e la sezione di Roma, così come le altre, avevano una reputazione assoluta ed erano proprio per questo interne ad un circuito di scambio di informazioni degne di un servizio di grande reputazione. E questo ci ha portato ad aprire anche altri fronti su un ambito del terrorismo internazionale, nell'ambito della lotta alla destra eversiva, nell'ambito della lotta all'antiproliferazione, su cui la sezione si è misurata in quegli anni. Per rendere un pochino pittoresco questa cosa, siamo riusciti a mettere un'antenna della gamma di 400 sul tetto della prefettura di Parigi di fronte a Notre Dame, per dire quanto fosse integrato la nostra attività con quella della section de direction del Régime Général della prefettura di Parigi. Ecco, la stessa cosa potrei dire con la Brigata di Informazione Exterior di Madrid, con il BKA tedesco, con il servizio della Svizzera, del Canton Ticino, e con il Belgio, ecco, con Scotland Yard, ecco, in quegli anni. Senti, la tua esperienza presso la Scuola Militare Nusatella, poi l'Accademia di Modena, e direi infine il reparto operativo di Nuoro, possono essere considerate delle pietre fondamentali per costruire la professionalità che poi tu hai avuto la possibilità di profondere durante questa esperienza importante della sezione speciale anticrimine? Sì, io perché ho citato prima la mia esperienza sarda come altamente formativa? Perché la Sardegna in quegli anni era un po' indietro, se vogliamo usare questa frase qui, da un punto di vista anche di espressione criminale. C'era ancora faide tra famiglie, c'era il sequestro di persone. Ai miei tempi c'era l'anonima sequestri che fece tantissimi danni, tantissimi. Quindi ho imparato dai sardi e dalla campagna. In campagna bisogna star fermi perché altrimenti si viene visti. Se si sta fermi si vede, se ci si muove si viene visti. Poi questa attività in quegli anni, un omicidio presupponeva uno studio del fascicolo, uno studio di quali potevano essere le premesse che affondavano molte volte in anni, in decenni precedenti con le motivazioni iniziali. Quindi da questo mi si è inserita dentro questa abitudine all'analisi, l'analisi di situazione, inquadrare il problema prima di poter agire, anche perché in quei casi se si agiva in maniera provveduta uno creava certamente subito un latitante. Il latitante sta fuori, il latitante fa i sequestri di persone, va ad ingrossare ancora quanto già c'è fuori. Quindi per me l'esperienza sarda è stata veramente veramente formativa. Poi l'esperienza sarda presupponeva inoltre anche un'attività anche sul terreno, quindi in campagna, in montagna, e lì bisogna saperci stare, perché bisogna considerare la direzione del vento, perché gli ovili che uno doveva andare a controllare erano magari circondati da cani, li mettevano apposta per poter ricevere allarmi dall'abbaiare. Quindi bisognava capire quali non bisognava lasciare tracce, bisognava riconoscere tracce bisognava studiare la direzione del vento per essere sotto vento e non sopra vento. Ecco, tutte queste cose abituano a essere analitici, fermi. Bisognava pensare prima di muoversi. Ecco, questa cosa è ovviamente per me è stata, io riconosco in questa cosa per me una grossa formazione, che devo molto anche ai miei sottufficiali sardi, con cui peraltro sono ancora tuttora legato. Io ricordo avevo 20, appena 25 anni, e quindi comandante di tenenza, il mio autista ne aveva 50, erano appuntato. E quindi diciamo io sono cresciuto con loro. Loro mi hanno, diciamo, guidato in una forma, diciamo, anche di rispetto, di... Perché? Perché io peraltro ero un uomo che andava sia dietro la scrivania, ma stavo benissimo sempre anche con loro, soprattutto nei momenti difficili. Certo. Senti, tu parli della dottrina operativa, l'hai già accennato prima. Possiamo dare qualche indicazione in più di questo metodo che poi diventa dottrina operativa? Cioè, mi sembra che un elemento fondamentale che si apprezzi, e tu già hai dichiarato, è questa capacità della sezione, ma in realtà di tutto il sistema che ruota attorno al generale della Chiesa, di studiare, di crescere e di sviluppare delle modalità. La dottrina operativa mi sembra che sia come dire, l'output che è giunto fino a noi. Però volevo da parte tua magari qualche considerazione in più, se credi. Ecco, come dicevo prima, il metodo lo chiamiamo dei rami verdi. Le cose che diciamo implicavano con, diciamo, questa dottrina che spinge dalla Chiesa nell'attività di questo speciale reparto è quella di delineare sempre prima l'organizzazione, delinearla bene. E questo non era scontato, perché a quei tempi l'operazione veniva subito e seguito dalla conoscenza. Che so che in quella casa c'è delle armi o c'è della droga, si va in quella casa e si va a vedere. No, noi no, noi andavamo a censire al catasto quella casa, ne acquisivamo la pianta, andavamo a recuperare i consumi di elettricità, di acqua, di gas e di tutto quanto, andavamo a fare un'osservazione per vedere se, andavamo a raccogliere l'immondizia per vedere cosa veniva, mettevamo un furgone per fotografare chi la frequentava, preferivamo cercare di trovare la connivenza di qualche finestra di fronte, perché il furgone prima o poi, come ci è accaduto, insomma, può essere scoperto, per poter fare questo. Ma questo perché lo si faceva? Perché si doveva delineare bene il nemico, l'avversario. Supponiamo che si individuasse un covo terroristico. Diciamo che l'intervento su questo covo era fatto con riluttante, perché se è un covo clandestino, tutto ciò che tocca il covo clandestino è oro, perché partendo dal covo clandestino, dalle persone che lo abitano, si poteva individuare la struttura. Io ricordo che in quegli anni erano talmente tanti questi censimenti che facevamo, talvolta come ricerca, talvolta nell'ambito di operazioni già ben delineate, che erano talmente tanti i nomi che mi costringevano, non c'era l'informatica, non mi costringeva a creare un tabellone che diventava sempre più grande, perché i nomi aumentavano sempre più grande, in cui c'era, nell'asse delle ordinate c'erano i nomi, che chiaramente erano nomi, diciamo, convenzionali, perché non mettevamo certo i nomi veri, quindi questo faceva riferimento ad una rubrica dove c'erano, si svelava l'esatta identità, una rubrica tenuta in cassaforte, perché ciascuna persona che veniva individuata gli veniva attribuito un nomignolo in ragione della sua fisionomia, di qualche particolare dove era stato, insomma, in qualche modo gli si appiccicava addosso un nomignolo. A questo diciamo tabellone, che qui oltre nell'asse della scissa c'era le date, che, per cui incrociando i punti di contatto si cominciava a vedere si cominciava a vedere, diciamo, chi svolgeva un'attività più intensa rispetto agli altri, e quindi da quello si faceva luogo ad un pallogramma relazionale in cui c'erano delle figure che venivano collegate ad altri con delle, facendo proprio con la penna una moneta da 100 lire, si creava, si metteva il nome convenzionale, due striscette sopra e sotto in cui c'era un numero che era la sequenza con cui si era entrata nel coso, e in fondo c'era scritto per esempio IVFL, significa identificato, fotografato, visto, localizzato. Questo significava, e poi ciascun cerchio collegato con l'altro era collegato in maniera diversa, una linea dritta, una linea continua, dei punti per indicare le modalità in una leggenda con cui era stato acquisito questo dato. Ecco, questo che cosa comportava? Comportava che prima di agire noi dovevamo aver individuato una cosa, una struttura organizzata, e dovevamo decidere, per poter, non essendo consapevoli che non era parte di un tutto ancora molto pericoloso, intervenire su tutto era stupido. Certo. Era molto più intelligente lasciare qualche elemento che potesse condurci a mantenere il contatto informativo con la struttura clandestina che avevamo individuato, e partire da lì per creare altri pallogrammi, altri interventi, altri pallogrammi, altri interventi. Ecco, questo diciamo metodo, che iniziò un pochino in maniera avventurosa, non era strutturato, non è che ci fosse stato facciamo così, no, questa cosa nasce in ragione dell'obiettivo, però ci si accorge che funziona, certo, che funziona molto bene, e allora diventa, io nel libro parlo, diventa, assume la dignità di una dottrina. La dottrina in accademia ci hanno insegnato, la dottrina d'impiego, la dottrina, la tattica e la strategia sono dottrine, e quelle sono diciamo metodi di valutazione dei fenomeni e metodi di intervento su questi fenomeni. Ecco, con questa affermazione io ho voluto nobilitare un metodo che ha portato questo, che dimostra come un reparto dell'arma è maturato fino a imporsi in maniera veramente efficacissima e, diciamo, rispettata, inserita in quello che ho citato prima, sì, sì, un circuito di scambio di informazioni eccezionale, eccezionale, quasi come se fosse un servizio. Ecco, ottimo, grazie mille. Tu hai parlato, hai citato prima l'operazione Olocausto. Questo che a me sembra più interessante è la disarticolazione della colonna romana e delle Brigate Rosse, partito comunista combattente, che la sezione riuscì a portare avanti nell'88. Non so se hai voglia o vuoi ricordare qualche cosa di questi episodi che diciamo rendono così lunga questa operazione, e magari anche un aneddoto, un elemento che ti possa ricordare. L'operazione, avevamo l'abitudine di dare un nome a queste operazioni per poterle gestire senza troppe parole palesi, ma che rimanessero nell'ambito della nostra, diciamo, riservatissima. Tenete conto che normalmente un organo di polizia, quando fa un'operazione, insomma, c'è tutta una specie di battage pubblicitario, si va sulla stampa. Noi invece abbiamo sempre evitato. Questo libro viene dopo 40 anni di silenzio. Queste cose che sono scritte in questo libro probabilmente prima di noi non le sa nessuno, o comunque non le sa nessuno in maniera così aggregata. Certo. Assolutamente non le sa nessuno. L'operazione Olocausto, quindi io, quando iniziamo questa, quando ci arrabattavamo, facemmo nel 78 tante belle operazioni, però erano tutte fine a se stesse, non riuscivamo ad afferrare il bandolo che ci consentisse di dire ho capito, no, rimanevamo sempre con un languore che non riusciva ad essere saziato da questa cosa qua. Quando arriva l'infiltrato, da parte il militante del PC, infiltrato, che gestisce innanzitutto prima Bonaventura, Umberto Bonaventura, un ufficiale eccezionale, un decano della lotta al terrorismo nell'arma, perché era, comandava la terza sezione del Gruppo Investigativo di Milano, che aveva come competenza i reati contro la personalità dello Stato, e quindi aveva cominciato per primo di tutti a fare questo, era il più bravo di tutti noi in questo settore. Quindi il PC chiede che a gestirlo sia un ufficiale non di Roma, per evitare che potesse essere, scoprirsi questa collaborazione inedita in effetti, però poi alla fine bisogna andare sul terreno per fare pedinamenti, per fare cose, e quindi sono subentrato anch'io come alter ego, e quindi ho seguito sin dall'inizio questa operazione, fino al 79, poi si scioglie il secondo nucleo speciale, Bonaventura torna alla sua sezione anticrimine a Milano, e quindi io rimango da solo a gestire la fonte e l'infiltrato. E quindi noi, con la sua cooperazione, collaborazione, riusciamo, attraverso, controllando vari incontri che lui ha avuto, a individuare la direzione della colonna romana. E il 7 maggio 1980 riusciamo a inferire un colpo decapitando la colonna, con tre covi importantissimi. Importantissime proprio in questi covi, afferriamo il bandolo, perché quando interveniamo abbiamo registrato e fotografato anche altri incontri che questi capi avevano avuto, che strumentalmente non eravamo riusciti a identificare. Ci siamo dati da fare, ho richiesto la collaborazione del PC. La PC me l'ha data, uno di questi è stato di nuovo identificato tramite loro, e da lì abbiamo ricominciato, e da lì è partita tutta una serie, di operazioni scandite nel tempo. A questa si sono aggiunti poi molti pentiti che abbiamo avuto. E perché abbiamo avuto i pentiti? Abbiamo avuto i pentiti perché abbiamo saputo parlare con costoro, cercando di capire che cosa stavano combinando, la pretestuosità della loro argomentazione, e quello che li ha colpiti, che poi tutti ce l'hanno detto, è stata la semplicità con cui noi abbiamo affrontati, spiegando che a molte cose che dicevano loro eravamo d'accordo anche noi. Certamente il paese versava in delle situazioni che erano in taluni punti molto contraddittorie, però da qui a passare alla lotta armata ne passava. Forse era più logico utilizzare il voto piuttosto che non le fucilate. Ecco, e questo piano piano. Poi al colloquio tecnico, tra virgolette, che potevo fare così, si accoppiava la vicinanza dei ragazzi, magari più semplici, ma che riuscivano ad avvicinarsi al terrorista non pentito, ma pentendo, diciamo così, con questa, lasciatemi passare questa cosa bruttissima, una semplicità. Gli uomini dello Stato, come ci chiamavano, gli eti del generale, non sono torturatori, sono ragazzi come noi, vengono da una famiglia come noi, probabilmente anche le loro famiglie hanno difficoltà a arrivare alla fine del mese, quindi insomma questo lavoro ai fianchi, semplice, naturale, che veniva senza un disegno così. Immaginate che questi qui, quando li arrestavamo, non volevano neanche mangiare, perché era invalsa l'idea che noi avessimo drogato i liquidi oppure i solidi, il cibo. Tant'è che avevamo comprato dei bondi in motta che sono inseriti in delle buste di plastica, per cui facevano bolla, per cui vedete, non le abbiamo siringate così come faceva il KGB, ma sono bondi in motta, se li vuoi, eccoli qua. Quindi, ecco, un'altra cosa che voglio dire, quindi, e lì nasce l'operazione Olocausto. In quel periodo facevano un film su Israele, sulla uscita di Israele, quando si costituisce lo Stato di Israele, quindi io metto quel nome senza mai aver pensato che poi alla fine quella parola è stata foriera poi di un successo strepitoso. Sì. Di un successo strepitoso. Ma lì poi partiva e dalla Chiesa diceva: dovete operare con fantasia, e noi l'abbiamo usata la fantasia. Una di queste, che nel libro chiamo come acchiappo. Io sono di origine napoletana, per cui l'acchiappo è un verbo acchiappare tipico dell'idioma comune napoletano, no? L'acchiappo è quando uno la cattura, ecco, vogliamo dire l'acchiappo. Ci eravamo resi conto che, diciamo, se hai seguito una persona per tanto tempo, alla fine riesci a capire come pensa, perché ciascuno di noi ha delle attività ripetitive. Quindi quando non lo trovavamo più, lo andavamo ad aspettare dove lui passava sempre, perché analizzando le relazioni di servizio di ogni pedinamento si vedeva che gira gira passava sempre da qui, da qui, da qui. Se poi uno, poi questa cosa ebbe subito i suoi effetti positivi, restavamo parecchie persone così. Poi vedemmo che la cosa funzionava e allora cominciammo a pensare, ma i covi dove stanno? Nell'Interland romano. Questi che strada che fa, utilizzano i mezzi pubblici, soprattutto di superficie, ma anche quelli sotterranei. Quelli sotterranei erano per noi un problema e adesso vi dico come lo gestimmo. Allora, se uno prendeva lo stradario del comune di Roma, che era associato all'eco telefonico, vedeva che c'era una cartina che rappresentava le linee di superficie e un'altra quelle underground. Se uno prende queste cartine e le sovrappone, vede che ci sono dei grumi in cui ci sono molti mezzi che passano nello stesso punto. Ci sono dei fulcri, che sono Piazzale di Roma, Piazza dei Cinquecento, tantissimi i capolinea della zona sud, della zona nord. E allora noi con il pentito a bordo mettevamo una struttura di pedinamento, normalmente sono 5 macchine, con un furgone, che alle 6:30, 7 si trovava nella parte, diciamo, periferica, e poi cominciava a muovere verso il centro per poi ritornare verso la periferia verso sera. Perché questo era il meccanismo che utilizzavano queste persone. Beh, in 4 anni abbiamo catturato 25 terroristi, non uno. Quindi, diciamo, è vero che siamo stati fortunati, ma la fortuna va anche cercata e noi l'abbiamo. Nell'operazione Olocausto cito una frase di Seneca e dico che diceva: la fortuna non esiste. In questo mi lascerete passare un pochino di presunzione, ma questa presunzione è fatta di fatti, perché qui ci sono, in questo libro ci sono circa 500 arresti che abbiamo operato destabilizzando l'organizzazione. Quindi diceva: la fortuna non esiste, esiste il talento che coglie le occasioni. E noi queste occasioni le abbiamo cercate, le abbiamo analizzate e le abbiamo trovate, ma le abbiamo trovate con l'impegno. Avevamo perso un ragazzo molto importante nella zona di Piazzale di Roma. Bene, ottenuto quasi 6 mesi un uomo a Piazzale di Roma e l'abbiamo trovato. E quel ragazzo avrebbe fatto parte di lì a qualche giorno, dopo che l'abbiamo incontrato, riconosciuto, localizzato, identificato, avrebbe fatto parte del comando che tentò il sequestro del vice capo della Digos, Nicola Simone. Quindi parliamo di questo livello di criminalità politica. Ecco, quindi l'operazione Olocausto è la sublimazione di tutto il metodo, che poi alla fine, man mano che va avanti, si corregge. Non solo si corregge, ma riesce a seguire anche le spaccature, perché l'organizzazione non è che ha avuto una vita lineare, ha avuto anche dal punto di vista interno dei contrasti molto forti che hanno provocato spaccature. Nasce il partito guerriglia con Senzani, nasce l'Unione dei Comunisti Combattenti. Ecco, stando così, noi siamo stati in grado tempestivamente di delineare subito le spaccature e quindi di dirigere, oppure di identificare qual era il rivolo che aveva avuto magari questo o quell'arresto rispetto, e quindi indirizzare in maniera, diciamo, più coerente, più penetrante l'azione del contrasto. Chiarissimo. Senti, tu sei anche occupato di versione di destra, mi sembra di aver colto all'interno del tuo libro la presenza dei legami tra le versioni di destra e la criminalità organizzata, che contava di trarre benefici principalmente di natura economica collegati a questa la diversione? Diversione di destra è sempre stata più difficile, un pochino più difficile o più facile? Più difficile perché mentre la sinistra scriveva e quindi ci consentiva di valutare, era acculturata, perché ogni volantino era un massacro di sopportazione riuscire a leggerlo tutto in una complessità anche lessicale, di meccanismo mentale abominevole, direi proprio così. Pensate, 10 anni a leggere queste cose ha messo a dura prova anche la cosa, così siamo andati da un psicologo. Mentre la destra non c'è tutta questa cosa, quindi non potendoli valutare è sempre stato quasi quasi più difficile poterli delineare da un punto di vista così. Però erano molto meno, la questione si è risolta molto. La differenza qual è? La destra parla di io, la sinistra parla di noi. Non so, un noi, diciamo, spersonalizzante, mentre l'io era personale e faceva delle armi, della cultura delle armi, la cultura dell'espressione fisica della persona in maniera quasi parossistica. Io ricordo quando arrestammo un terrorista, quando una stazione arrestò un terrorista che non sapeva che era un terrorista, quando lo seppe poi io intervenni, e poi questo sarà, si pentirà, ecco, Walter Sordi si chiama, molto importante, si pentirà. E trovai un ragazzo completamente fuori di sé, perché era molto contento di parlare con me, perché parlava, a un certo punto mi ha detto: parliamo da comandante a comandante, mi disse, quindi parliamo di questa gente qua, sì, sì. Parliamo, e Walter Sordi ci racconta che quando decidono di uccidere il capitano Straullo della Digos di Roma, oltre a farlo fuori in maniera massacrante, avevano deciso, poi non lo attuano, di comprare una lancia indiana per piantargliela in petto. Ecco, i Brigate Rosse non hanno mai avuto queste espressioni di stupida ferocia. Poi, a questo momento, diciamo, pseudopolitico, che aveva più del una finalità di vendetta piuttosto che di progettazione politica, okay. Si associa sempre più rapine o per sostentamento, per poter vivere la clandestinità, perché molti di questi poi venivano raggiunti da provvedimenti di cattura e si rendevano latitanti. E molti di questi reati necessitavano di un ricettatore, e quindi ecco la vicinanza alla cosa. Poi sono diventati anche killer per conto di bande, dal recupero crediti a tante altre. Arrestammo varie volte anche il noto Massimo Carminati, quindi la vicinanza con la banda della Magliana, con persone della banda della Magliana, è documentata da tante sentenze, certo. Da tantissime sentenze, per cui ci troviamo in quell'ambito là. Quando la sezione nasce, il nucleo di destra non c'è ancora, perché eravamo tutti rivolti sulle Brigate Rosse. Riusciamo a ricostituirlo appena, diciamo, la sezione si stabilizza un po', quindi inizia così. E così nell'83, quando Roma diventa teatro di attentati terroristici di matrice palestinese, in particolare di Fatah, Consiglio Rivoluzionario, Bunidal, creiamo un nucleo terrorismo internazionale che fa le cose in maniera egregia, perché riusciamo a risolvere da un punto di vista informativo quasi tutti i reati: l'attentato al Caffè di Parigi, alla British Airways, all'attentato al rappresentante degli Emirati Arabi Uniti a Via di Grotta Rossa, l'attentato al consolato giordano a Piazza Verdi, l'attentato all'aeroporto di Fiumicino. Ecco, l'attentatore che è superstite lo prendiamo noi in gestione e riusciamo a convincerlo a parlare con quel metodo di cui parlavo, lo stesso metodo. Questo era un ragazzo di Sabra Shatila, uno dei villaggi che vennero uccisi dalla falange libanese, no, durante la guerra dei sei giorni, e aveva 18 anni, aveva visto soltanto Kalashnikov e morte intorno a sé. Quindi quando riuscì a parlare con gente che non aveva questo approccio violento, gradualmente si aprì. Ci dette il numero di Damasco che avrebbe dovuto chiamare il comando per, nel caso di problemi. Noi entrammo nel computer dell'Ital Kabul, perché all'epoca la Siria non era inserita a teleselezione, entrando nel sistema amministrativo di Ital Kabul, riusciamo a sapere quali numeri italiani avevano chiamato quel numero, quindi rimbalzando avanti e indietro tra le due domande riusciamo ad avere lo schieramento di Abu Nidal in Italia e anche a Parigi. E questo fu un successo di intelligence formidabile che ci portò ancora a aumentare la reputazione, a tenerci dentro riuscimmo a trovare tantissime cose e soprattutto riuscimmo a identificare anche due residenti in Italia di Abu Nidal che avevano affittato appartamenti e contemporaneamente, in concomitanza degli attentati che ho citato, anche sosta in alberghi. Bene, la prenotazione in due circostanze di questi alberghi era stata fatta dall'ambasciata libica e dall'ambasciata siriana, a dimostrazione di come il regime del colonnello Gheddafi abbia gestito l'attività operativa di Abu Nidal in quegli anni. Certo. In quegli anni, come pressione su governi per cercare di... Del resto l'Italia precedentemente con lo stesso Moro aveva, diciamo, negoziato con i palestinesi dell'OLP una sorta di pax nazionale per, però, che ci sollevasse dal pericolo di che l'Italia fosse teatro di scontri, certo, sanguinosi che potrebbero coinvolgere la popolazione. Quindi su tutti i fronti noi siamo riusciti con quel metodo a creare situazioni virtuose da un punto di vista metodologico. Ci misurammo in quel periodo anche l'antiproliferazione. I nostri servizi di sicurezza non avevano capacità operativa numerosa, insomma, avevano capacità di innescare, però ci investirono in una collaborazione così e riuscimmo durante la guerra in Iraq a interrompere il flusso di componenti delle bombe cluster che andavano costruite in Italia e poi assemblate a Baghdad. Riuscimmo a trovare parti del Condor 2, che era la trasformazione di un missile meteo in un missile a fuoco mobile, quindi diventava un missile balistico direzionabile a testata a piacere, sì, sì, ecco, che era una cooperazione egiziano-argentina irachena. Ecco, anche in quel contesto noi facevamo dell'ottimo lavoro. Poi quando sono andato via, poi fecero anche un intervento sul supercannone, sempre, sì, in ambito iracheno, sì, sì, trovando parti della testata nell'acciaieria a Terni. Quindi insomma, un bel reparto. Io, diciamo, sono molto legato a quel pezzo della mia vita, perché è stato quello che, forse perché ci sono stato 12 anni, è stato quello che ho potuto vivere più intensamente. Del resto noi ufficiali, gira gira, 12 anni in un posto non ci stiamo mai. Però l'emergenza quindi favorì questa presenza a fronte di un'emergenza che veniva, che stava funzionando, quindi il comando generale non mi spostò. Mi sposto soltanto quando devo fare il periodo di comando certamente. Per comandante del gruppo. Dunque ti chiederei ancora se vuoi aggiungere qualcosa, magari una tua considerazione personale, un ricordo del tempo anche legato ai rapporti con i militari della sezione, se vuoi lasciare un pensiero. Il coinvolgimento era un po' totale, tant'è che coinvolgevamo anche le famiglie poi alla fine. All'epoca non avevamo donne, per cui a cominciare da mia moglie, da mia cognata, da mia nipote, dalla fidanzata di questo o quel sottufficiale, dalla figlia di questo o quell'altro, riuscimmo ad avere anche un gruppetto di ragazze che ci accompagnassero nei pedinamenti, perché molti pedinamenti erano molto lunghi, talvolta statici, per cui era pericolosissimo che si potesse essere svelati. Per cui ci hanno dato una grossa mano e in alcune circostanze anche hanno studiato gli strumenti per localizzare il covo, perché due donne con la borsa della spesa che rientrano a casa sono molto più mimetizzabili che non altrimenti. Quindi diciamo che era molto. Poi sa, noi veniamo da una scuola che è quella della Nunziatella, è quella di un periodo dove uno dei compiti degli ufficiali è quello di curare bene la propria gente. Ecco, questo è quello che io ho fatto, ma così come hanno fatto tanti altri ufficiali prima di me. La dignità di un ufficiale è quella dell'azione di comando che riesce a esprimere, e l'azione di comando è quella responsabilità che ha verso questi ragazzi. Io dicevo sempre che l'affetto dei familiari lo dai per scontato, la stima e l'affetto dei tuoi uomini te lo devi guadagnare, e se lo si guadagna se sei un punto di riferimento sicuro. E io per questo, insomma, ho cercato di svolgerlo in maniera così, partecipando personalmente a tutte le situazioni più pericolose, mettendoli al riparo e esponendomi io stesso, ma non perché per un intento eroico, ma per un dovere preciso che ha un comandante. Certo, insomma, ecco. Certo. Caro Domenico, allora grazie per la tua cortesia, accettare il mio invito, grazie per la chiarezza espositiva, e spero che avremo altre occasioni per scambiare qualche parola insieme ancora davanti a questi microfoni. Ringrazio voi per avermi dato modo di dire queste cose che spero raggiungano i giovani dell'Arma, che sono il futuro della nostra istituzione, perché uno è con un invito. Soprattutto gli ufficiali, poi, alla fine, o i comandanti, perché anche i sottufficiali sono comandanti nel loro livello. Il compito di un comandante è quello di cercare di lasciare qualche cosa, anche piccola, perché poi la somma, diceva Totò, che fa il totale. E questo significa identità, e questa è l'identità che ci hanno lasciato i nostri predecessori nell'Arma, che data molti anni fa, e se vive ancora adesso è perché ci sono state persone che l'hanno alimentata. Cerchiamo di farlo anche noi. Bene, grazie ancora.